I dati ci confermano che appunto il lavoro a termine, così come le varie tipologie contrattuali molto più precarie come il lavoro a chiamata e il lavoro in somministrazione, aumentano e continuano, diciamo, a fare dominare il mercato del lavoro degli ultimi trimestri. In particolare per quanto riguarda il lavoro a termine si continua quindi a notare quella dinamica che, finiti gli sgravi potentissimi del 2015, effettivamente il padrone, potremmo dire, del mercato del lavoro dal punto di vista contrattuale è proprio il contratto a tempo determinato. Anzi, se guardiamo quel rapporto appunto congiunto che è uscito oggi, si vede proprio questa progressione negli ultimi 5 trimestri, dove l'INPS, l'Istat e il Ministero del Lavoro ci dicono che negli ultimi 5 trimestri, allora, l'avanzata del lavoro a termine è più 44.000, più 66, più 145.000, fino ad arrivare a quest'ultimo di più 329.000 occupati a termine. Significa che effettivamente sta avanzando a una velocità, quindi un tasso di crescita elevatissimo e molto superiore al tempo determinato, che loro continuano a dire che hanno incentivato, sì, con gli sgravi è vero, ma anche col Jobs Act, e questo sappiamo non essere vero. Anzi, l'ISO ci dice che quello che guadagniamo di tempo indeterminato, che è sostanzialmente nella corte anagrafica over 50, è proprio dovuto alla legge Fornero, punto. Lo dicono loro, non lo diciamo noi che siamo gufi. Quelli che però ci dice questo rapporto, ed è molto interessante, è da un lato l'emergere del lavoro a chiamata, che di fatto diminuiva, no, dopo la legge Fornero, che era stato un po' vincolato, subito dopo l'inserimento della tracciabilità sui voucher è, diciamo, l'abolizione temporanea che c'è stata nella primavera scorsa. E anzi, quello che ci fa notare è che proprio nell'ultimo, tra il primo trimestre e quello precedente, il lavoro a chiamata aumenta addirittura del 13,5%, quindi proprio una vera sostituzione rispetto ai voucher. Anche questa idea che abbiamo già dato, no, tra queste due forme contrattuali molto sostitutive tra loro, lo afferma anche l'Istat. E infine il lavoro in somministrazione, che negli ultimi 5 anni, oggi, è aumentato in un solo anno del 24% circa. Significa che appunto le imprese continuano in qualche modo a sottrarre a loro stesse quella che è la funzione proprio di controllo di domanda di lavoro e affidarla a terzi, quindi come un qualsiasi fornitore usa e getta di una merce qualsiasi. E i dati sono abbastanza eloquenti per quanto riguarda la proposta che ci fanno di aumentare dell'1,4% il costo del tempo determinato, ma sembra sempre un po' una presa in giro, un qualcosa che danno come spot, in quanto da un lato l'1,4% sul 30% è pochissimo, questo si era visto già con la riforma Fornero e non ha funzionato, perché comunque il contratto a tempi determinato, che sarà in qualche modo incentivato ulteriormente con gli sgravi abbastanza cospicui quest'anno sia per i giovani che per il sud, rimarrà comunque stravantaggioso. E dall'altro lato abbiamo una prateria di forme contrattuali che, come vediamo, possono essere tranquillamente utilizzate al posto, diciamo, del contratto di subordinazione. Ma soprattutto dall'altro lato bisogna dire che non è una questione di costi del contratto a termine, no, se vogliamo vincolarlo, quanto forse piuttosto ritornare indietro rispetto al decreto Poletti, a quello che era stato nel 2001 il decreto Sacconi, di vincolare il contratto a termine a delle funzioni e, diciamo, delle condizioni produttive, quindi se ci sono dei picchi di produzione per la sostituzione di maternità, diciamo, dove c'era appunto un vincolo produttivo e organizzativo per cui poteva essere utilizzato al posto del contratto a tempo indeterminato. Non è sicuramente una faccenda di costi, così quello può aiutare, ma se poi diciamo che dell'1,4% l'aumento, sappiamo benissimo che è una presa in giro. Quindi è sostanzialmente un pannicello caldo che però non risolve il problema, perché da un lato, appunto, con gli sgravi che hanno avuto le imprese in questi anni magari sono anche disponibili a pagare un pelino di più, dall'altro, come ricordavi prima, ci sono ormai talmente tante forme di contratto precario che c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, anche perché per esempio sul tempo determinato abbiamo ancora dei vincoli, no, perché si può usare per il 20% rispetto, no, all'organica a tempi determinati. Il lavoro a chiamata sì, è vincolato rispetto all'età, cioè ho soltanto over 55 e under 25, ma poi per il resto io posso continuare a sostituire lavoratore a chiamata dopo lavoratore a chiamata, perché l'unico limite è proprio sui lavoratori, però ciascun lavoratore non può fare più di 400 giornate di lavoro a chiamata nel triennio, ma l'impresa non ha nessun vincolo, quindi di fatto continua in qualche modo il diritto, se vogliamo, delle imprese di far ruotare i lavoratori, diciamo, nel tempo. Cosa bisognerebbe fare invece per scoraggiare i contratti precari e avere invece contratti più stabili? Sicuramente da un lato abolire tutti i contratti appunto precari, dal lavoro a chiamata, i voucher anche nella loro versione che sono aberranti, e per quanto riguarda il contratto a termine, che comunque esiste fin dal 1962, riportarla alla funzione originaria, ovvero la temporalità rispetto alle esigenze di impresa, quindi appunto quello che era una volta la lista molto rigida delle, diciamo, occasioni organizzative e produttive in cui poterlo svolgere, perché altrimenti appunto diventa che cioè quello che sta avvenendo, che vediamo da anni, ovvero frantumazione delle filiere produttive, il just in time, il produrre no soltanto a tempo, diventa una questione in cui sul lavoro viene proprio scaricato il peso, no, della ciclicità in qualche modo della produzione, e si rende molto variabile il costo del lavoro, quando invece potrebbe essere fisso, ovvero se non c'è produzione la colpa non è dei lavoratori, allora lì la responsabilità è quella di dividere, no, in qualche modo il periodo anche di bassa della produzione, chiamiamola crisi, tra imprese e lavoratori. Invece in questo caso io posso espellere lavoratori come voglio, quindi non pagarli e farli in qualche modo assumere tutte le responsabilità di una crisi produttiva, eccetera. Quindi sicuramente non possiamo intervenire dal punto di vista unicamente fiscale o appunto su pezzi della normativa, quando poi abbiamo praterie di contratti flessibili, comunque al limite proprio dell'imbarbarimento in qualche modo della responsabilità di impresa, e dall'altro lato appunto dei vincoli produttivi che non esistono, è un regime fiscale che poi quando viene in qualche modo avvantaggiato lo è sempre per l'impresa, perché nessuno mai parla di aumentare di tanto, no, il premio per avere un contratto a termine, quindi dei salari per i contratti a termine, così che le imprese effettivamente, se vogliono ridurre i costi o forse un giorno cominceranno a investire sui processi, devono in qualche modo scontrarsi con un costo realmente molto più alto.